La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Questa macchina può diventare sistematica, ultramatica, idromatica. Può diventare Grease Lightning. Prendo un motore micidiale, il missile spaziale, yeah. Va avanti, wow, va avanti. Iniezione carburante con favole cromate, yeah. Mi trovi soldi, sì, mi trovi soldi. Con un pulire così ci diranno tutte sì. Sulla strada incontrerà belle curve in quantità e Grease Lightning. Le note sono di quelle davvero inconfondibili. Buon Ferragosto a tutti, una buona estate da Franco D'Assisi in studio per La Rosa Purpurea, puntata speciale questa, perché il prodotto cinematografico latita durante questi giorni agostani, ma non latita sicuramente lo spettacolo del musical, del grande musical italiano e internazionale, che sarà la trave portante di questa puntata. Per farla, per raccontarvi la stagione del musical legata al cinema, film che diventano musical, musical che diventano film. Qui con noi ci sono un po' di ospiti che presento, sono subito con me Lucio Leone. Ciao Lucio. Oh. Non si è sentito il tuo ciao, noi lo ridiciamo. Riciao. Riciao, ecco, perfetto. E Silvia Rosio. Buongiorno a tutti. Ecco, allora, sono due colleghi che si occupano di questa dimensione dello spettacolo, che ha tante attinenze appunto con il cinema, ne ha avute sempre, quella di spettacoli teatrali, di Broadway e non solo, che diventavano dei musical, diventavano dei film, di film che nascevano, facevano tanto successo da arrivare poi sul palcoscenico. E allora in questa ora di trasmissione cercheremo di fare un po' un sunto di quella che è stata la stagione 2014-2015 in Italia per quanto riguarda il musical, perché è stata una stagione davvero molto molto importante, una stagione che ha portato qui tante star, tanti spettacoli di livello internazionale. Poi ci tufferemo nella seconda parte della trasmissione su Broadway, costruiremo un ponte con gli Stati Uniti per andare a dare un'occhiata a cosa succede lì, a quali sono gli spettacoli in questo momento in voga, in produzione e in preparazione per il futuro. Intanto ci hanno raggiunto altri due amici che adesso magari non so se hanno già i microfoni aperti, ma sono Fabrizio Carbon. Prova a dire ciao. Buongiorno, ecco, a tutti. Detto ciao anche Fabrizio Carbon. C'è anche una nostra altra amica, presentati, raccontaci chi sei. Sono Gloria Grace. Ma questo Gloria Grace non basta da solo, ci devi dire perché sei qui, perché sei la produttrice di... La co-producer associata di An American in Paris, ecco. E produttrice di Siddhartha. Mica paglia, insomma, qui cerchiamo di darvi il meglio. Allora, cominciamo un po' a fare un giro d'orizzonte, bello, veloce, ragazzi, mi raccomando, sintetici, perché abbiamo tante cose da dire e da sentire. Lucio, che stagione è stata questa 2014-2015 per il musical in Italia? Buona perché comunque ci sono stati tanti spettacoli, finalmente abbiamo avuto insomma dei riconoscimenti per questo settore, che è un po', è sempre stato un po' autoriferito per quello che riguarda visto dall'interno. Per di più, grandi numeri, finalmente sono tornati grandi numeri di spettatori, e questo fa ben sperare anche per le produzioni future. Molti sono degli adattamenti di musical esteri, altri invece sono stati musical italiani. Bene così, la prossima barriera da battere è la differenza tra teatro musicale e teatro di prosa. Il teatro è teatro, andate a teatro. questo è uno dei momenti più belli, di uno degli spettacoli più belli che sono arrivati quest'anno in Italia, il Rocky Horror Show nel cast originale inglese. Silvia Rosio, questo spettacolo forse insieme a Jesus Christ Superstar, sì, sono stati due dei momenti più importanti che hanno trasformato un po' Milano in particolare, ma l'Italia, dove questi spettacoli sono passati, per esempio il Rocky Horror al Ravenna Festival nella sede di Forlì, sì, l'hanno trasformata un po' quest'anno in una, così, in una piazza più interessante del solito per il musical. Non solo loro, perché è arrivato anche Beauty and the Beast della Disney, quindi sono forse questi tre i protagonisti degli spettacoli stranieri venuti in Italia. Jesus Christ, beh, diciamo che ormai è 20 anni che Piparo lo fa girare nel nostro paese, però quest'anno con l'anniversario dei 40 anni del film ha portato tre star che sono i tre protagonisti originali del film del 73. È rimasto adesso soltanto Ternini, mentre nella prima tranche di spettacoli ci sono stati anche Barry Dennen e Yvonne Elliman, che sono Maddalena e Pilato, e adesso Ternini da solo basta al prezzo dello spettacolo, perché è assolutamente una star. Ovviamente il Rocky Horror ha dei protagonisti che noi non conosciamo in Italia, e anche la Disney, questa versione di Broadway che è arrivata comunque di una qualità elevatissima. Io sono molto per il Jesus, diciamo, che poi tornerà tra l'altro a ottobre. È un grande lavoro di Massimo Romeo Piparo, che comunque ha lasciato un po' l'impianto originale dello spettacolo mettendoci qualcosa di suo, perché forse non tutti sanno che la scena di Erode è quella che è libera, quindi ogni regista può farla come vuole. Lui ha fatto un po' una scelta di teatro da commedia dell'arte, quindi ha messo dei personaggi come Arlecchino, ma lo spettacolo sta in piedi da solo. Di Getsemani da Jesus Christ Superstar, abbiamo colto al volo il messaggio di Silvia Rosio. Effettivamente poi la presenza sul palcoscenico di Ted Neely è come di inonda di luce questo spettacolo. Io gliel'ho chiesto, abbiamo incontrato più volte qui la Rosa Purpura, gliel'ho chiesto, dico, ma fare Gesù per 40 anni non è che ti cambia un pochino anche? Ed effettivamente sì, forse un pochino sì, cioè poi lui è un personaggio di una molto iconico, tra l'altro, assolutamente di una statura straordinaria. Quindi certo, Jesus Christ Superstar, Rocky Horror Show, La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia che è arrivato agli Arcimboldi con il cast di Broadway, quello da esportazione, quello diciamo esportazione, così. Però sì, insomma, tanta roba lo stesso, grande spettacolo per famiglie, forse un po' freddino rispetto, sì, a quello che ci si poteva aspettare. Anche negli applausi finali io aspettavo una cosa un pochino più scenografica, invece hanno fatto un piccolo ringraziamento, sono spariti, non sono usciti al bis, ma questo probabilmente è proprio una scelta che hanno fatto loro. Forse noi italiani siamo più umorali, no? Siamo più di pancia, quindi preferiamo emozionarci di più. Diciamo che ci sono tanti spettacoli che comunque ci danno emozione e continuano a darci emozione, anche spettacoli italiani di natura italiana. Uno che a me è piaciuto tanto è stato Frankenstein Junior, diretto da Saverio Marconi, anche lui tratto dal famoso film di Mel Brooks. Io sono la vostra governante, Frau Blücher. Oh, sentiamo come vanno le cose sulle strade di Ferragosto, che al momento, insomma, magari qualcuno che ci sta ascoltando in macchina può interessare. Fra poco torniamo e cominciamo a buttare un ponte sulla prossima stagione italiana, su quello che vedremo di musical dal cinema in Italia. La Rosa Purpurea. No sleeping heaven, no death heaven. straordinaria di questa canzone. Io trovo che sia una delle più belle in assoluto della storia del musical, e la canzone che traina Spring Awakening. Partiamo da qua in questo secondo blocco di questo speciale Rosa Purpurea di Ferragosto dedicato al musical e al rapporto tra il musical e il cinema in questa stagione italiana, e fra un po' vedremo anche americana. Spring Awakening perché? Perché è stato un esperimento totalmente riuscito sotto il profilo dello spettacolo, che però ci dà la stura per parlare con i nostri ospiti di come può essere veicolato il musical in Italia, perché è una cosa che sta un po' esplodendo in termini anche di passione. Bisogna trovargli i canali giusti. Questo è un musical pazzesco, perché parte da una pièce teatrale di fine 800, è ambientato, anzi di inizio 900, è ambientato nel 1890 tedesco. Ha avuto già un film, tra l'altro, muto nel 29, tratto dalla pièce di Wedekin, e adesso si sta preparando un vero film, un film musical su Spring Awakening in America. E questa è la notizia che tiene attaccato alla nostra trasmissione questo spettacolo. Lucio, un grande spettacolo, si è visto a Milano al Teatro Menotti, attori bravissimi, tessitura musicale sopraffina, musical rock, veramente. Però col pubblico si è fatta un po' fatica. Ecco, cosa succede a musical come questo, che sono titoli non affermati, non sono Grease o Jesus Christ Superstar? Cosa bisogna fare per veicolarli meglio e farli arrivare a un pubblico più ampio possibile? Ma intanto manca proprio il pubblico nei teatri. Il pubblico italiano, insomma, diciamo che quella generazione che forse avrebbe apprezzato di più un titolo come Spring Awakening non va a teatro. In America, ne parlavamo l'altro giorno con te, Franco. In America. Sì, eravamo fra di noi, sì, possiamo dirlo anche agli altri. Lo racconto brevemente. Insomma, Larson, quando ha fatto Rent, ha inventato questo sistema per cui gli studenti universitari pagavano $10 per andare a vedere. Lui ha reinventato una generazione che a teatro non ci andava, perché comunque i musical di Broadway sono appunto Lustrini, Payette e via dicendo. In Italia questo non si è fatto. La differenza, purtroppo, che all'estero non c'è tra teatro di prosa e musical, invece per noi è molto molto sentita, per cui il musical generalmente viene visto come intrattenimento puro. Quindi andare a dire alle persone andate a vedere un musical che però è una storia, si aspettavano forse la tata appesa all'ombrellino e non ci sono andati. I giovani, che forse avrebbero apprezzato appunto di più un titolo come questo, non l'hanno visto, non molto. È stato intelligente per certi aspetti un meccanismo che hanno usato i produttori di Spring Awakening, cioè quello di proporre a giovani performer di entrare come swing in città dopo città, e questo ha portato un po' di gente, se ne è parlato, però non è stato sufficiente. Spring Awakening è bellissimo, è vero, sta per diventare un film, e stanno parlando di fare un revival anche a Broadway, perché ormai è un classico all'estero. In Italia arriviamo sempre qualche annetto dopo. Queste sono le note di Newsies, lo spettacolo dell'anno, diciamo dell'autunno, del Teatro Nazionale di Milano, nuovo tempio del musical ritrovato negli ultimi 5 anni ormai di programmazione. Dal 31 ottobre in cartellone questo Newsies, che è disneyano, sì. È un musical molto molto affermato sulle platee di Broadway. Anche qui c'è stato un film nel 1992 che non ha visto nessuno in Italia, si chiamava Gli Strilloni, sì. Tra l'altro era un film che aveva anche un cast, da parte diretto da Kenny Ortega, che nel musical cinematografico americano è un nome importante, e che aveva un cast, dico dei nomi, Christian Bale per dirne uno, direi ante litteram, no? Prima di trasformarsi così, diciamo, apertamente in Batman, e poi anche tanti altri nomi importanti che però in Italia non avevano avuto grande presa in quel 1992. Adesso arriva il musical. Silvia, è un musical, Newsies, molto bello, devo dire, molto interessante, però fa parte di quelli di cui si dice un po' troppo americano. americano, perché racconta, lo ricordo, prende le mosse da uno sciopero degli strilloni. I newsy sono i ragazzi, i newsboys sono i ragazzi che vendono i giornali nell'America della Grande Depressione, nella New York della Grande Depressione, 1899. E quindi sicuramente c'è un po' da aggiustarlo per quanto riguarda la trama rispetto all'Italia. Uno spettacolo che può funzionare in Italia, quali sono le sue caratteristiche fondamentali? Quando io ho letto che ci sarebbe stato un musical Disney, subito ho pensato alle principesse, ai draghi e, appunto, come diceva Lucio, arriveranno anche quelli. Esatto, alla tata attaccata all'ombrellino. Spero che arrivino. È un esperimento quello di portare, appunto, un tema come questo, lo sciopero degli strilloni del 1899, però io sono convinta, le musiche sono comunque vincitrici del Tony, perché sono di Alan Menken, quindi già questa è una garanzia, perché sappiamo Sirenetta e quant'altro. La regia italiana sarà curata da Federico Bellone, che è una chicca che forse qualcuno non sa, aveva già fatto come regista Newsies amatoriale tanti anni fa, e le coreografie saranno di Gillian Bruce, che sta facendo anche Dirty Dancing nella sua nuova versione, quindi un'altra garanzia. Secondo me è uno spettacolo che può funzionare, anche se molta gente si aspetterà di vedere qualcosa di diverso. Ovviamente le locandine che ci sono in giro per Milano già ora fanno vedere di che cosa si tratta. In un periodo di crisi, lo sciopero degli strilloni ci sta anche in Italia. Le mani ci sanguineranno, polvere ci coprirà, ma noi mai ci stanceremo, e fino in fondo si arriverà. Billy, tu lo sai perché tu ti scioperi? Qualcosa che ti pare con Margaret Thatcher, mi pare. La Thatcher? Che è combinato? E che ne so io? Ci vediamo più tardi al pugilato? Va bene. Ciao, Michael. Crescerò con questi eroi. Volerò più su che mai. Vincerò la tristezza. Realizzerò i sogni. Invece questo è Billy Elliot, un altro dei grandi spettacoli che arriveranno proprio di matrice cinematografica. Qui la matrice è proprio cinema. Arriveranno in Italia nel prossimo autunno. Ci sono già stati, hanno già fatto il primo passaggio a Roma, e arriverà a Milano nel prossimo autunno. L'abbiamo messo insieme in Newsies perché anche qua lo sciopero è una matrice, è un altro musical militante, potremmo dire, no? Sì, in particolare tratto dal film del 2000, un altro successo che ha portato a casa Massimo Romeo Piparo, è stato alla Sistina di Roma e adesso finalmente arriverà a Milano in dicembre, al Teatro Nuovo dal 10 dicembre. Billy Elliot, la trama la sappiamo, questo bambino che vuole fare il ballerino classico, quindi un tema attualissimo, no? Anche il tema dell'eventuale omosessualità, anche se in realtà non si capisce dal film, che poi è stato declinato in vari altri spettacoli. Ricordiamo anche Priscilla, di cui non abbiamo ancora parlato, insomma, e sono tutti temi importanti, e credo che Piparo abbia fatto una buona scelta quest'anno. Invece siamo in una dimensione internazionale, voglio ricordare anche altre produzioni che arriveranno il prossimo anno in Italia, Tutti insieme appassionatamente, che anche sta già girando e arriverà a Milano, Cabaret, che trova la sua prima proprio in questo agosto a Todi e poi arriverà in una nuova versione durante la prossima stagione, Blues Brothers, che non è proprio un musical classico se vogliamo, ma è uno spettacolo fortemente incentrato su questo film di culto e quindi con musiche davvero straordinarie. Ma quello che stavamo sentendo era proprio Mamma Mia, lo conoscete, lo riconoscete, perché torna anche quest'anno in Italia e sarà un altro degli elementi, diciamo, di internazionalità del cartellone, Lucio, della prossima stagione. Sì, sempre nella nostra chiacchierata l'altro giorno mi hai riportato, io non mi ricordavo assolutamente come si chiamasse quel teatro, Il Lirico. Il Lirico di Milano, chiuso da troppo tempo. Chiuso da tanti tanti anni, ma era un teatro dove negli anni 80 io ho visto dei musical in tour, tour europei, bellissimi. Musical che, Ain't Misbehavin', ti dicevo, che che in qualche modo sono molto importanti, perché il musical è fatto veramente di tanti titoli, tante storie, tante tipologie diverse. Allora, questa è una fase in cui il musical di nuovo sta riprendendo piede, sta portando nuovi spettatori, produce reddito. Un pochino spero che sia una fase solo transitoria, per cui i grandi titoli, quelli che portano le famiglie, quelli che tutti conoscono, li abbiamo citati prima e sono bellissimi, però spero che aprano la porta anche a titoli meno conosciuti, perché appunto Ain't Misbehavin', che è un jukebox musical che racconta la Harlem degli anni 20-30, ormai in Italia non lo conosce più nessuno, ed è un peccato, perché questo genere di teatro serve. Quindi benissimo che venga Beauty and the Beast, benissimo che venga Mamma Mia, speriamo che tornino in tour anche spettacoli appunto che allargano la rosa delle proposte, che hanno più bisogno di essere conosciuto e di farsi conoscere, come per esempio Newsies, che effettivamente Newsies è un titolo di quella serie lì, diciamo, no? Esattamente, per di più il libretto di Harvey Firstein non ho mai capito come si dica, vabbè, ma va bene però così, è lo stesso che ha fatto Amici complici amanti, che ha scritto Kinky Boots, che ha scritto La Cage aux Folles, quindi è un grande autore di Broadway, e il fatto che un musical appunto scritto da lui magari vi piacerà, magari no, comunque è qualcosa di diverso nel panorama. Quindi benissimo che ci siano anche dei titoli tra virgolette minori, non sono minori, ma che in qualche modo testano, certo, e preparano il pubblico, aumentano la rosa, diciamo così. Esatto. E allora, prima di chiudere, anzi vi lasciamo a queste note, proprio per cominciare a passare, a saltare, anche se questo è proprio inglese, però a saltare anche verso Broadway, perché questo è uno spettacolo di quelli memorabili che sono in giro da 30 anni. Arriverà in Italia, tornerà in Italia nella versione internazionale in lingua originale anche Cats. The memory live again. La rosa purpurea. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito, forse anche da sola. Sono Annerita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17:30 su Radio 24. La rosa purpurea. Sono note inconfondibili. Un americano a Parigi, 1951, Vincent Minnelli firma quello che diventa un'icona del musical di tutti i tempi, tra l'altro al Festival di Cannes, per dire come insomma ci fosse ricettività anche da parte del più importante festival del cinema del mondo per questo capolavoro, che prende il nome dall'omonimo poema sinfonico di George Gershwin e ha quelle atmosfere proprio dentro le corde. Adesso è il momento di mettere dentro la nostra discussione anche gli altri due ospiti, Fabrizio Carbon e Gloria Grace, perché sono i protagonisti, non sul palco, ovviamente, giù dal palco, però di una cosa molto italiana, molto bella. Queste che state sentendo, che avete sentito, sono le note di An American in Paris versione Broadway. Sta andando molto forte a Broadway e con questo noi entriamo nella zona di questa puntata speciale della Rosa Purpurea dedicata al rapporto fra musical e cinema, su quello che è la scena di Broadway, per capirne il presente, il futuro immediato, ma anche capirne un po' i segreti, per capire un po' cosa possiamo imparare, insomma, da trasportare in Italia. E allora Fabrizio e Gloria qualcosa l'hanno fatto, cioè hanno coprodotto con una quota anche importante questo spettacolo. Sì, tu, ecco, si è preso subito tutti i meriti. E allora raccontaci un po', Gloria, come nasce questo contatto con Broadway e cosa vuol dire per una produzione italiana essere lì nel tempio del musical. Devo dire che ho avuto questa grande fortuna. Questa grande fortuna comunque avviene di questo incontro che abbiamo avuto per Siddhartha, dove loro sono venuti a vedere Siddhartha, sono innamorati del progetto, abbiamo fatto questo contratto dove si è creata un'amicizia, no? una bella collaborazione. Da lì dopo mi hanno proposto di entrare come coproduttrice in questo nuovo musical An American in Paris. Io giustamente, perché noi lavoriamo, siamo una famiglia, un team, mi sono confrontata con Fabrizio Carbone, che è il mio produttore esecutivo e collaboratore, grande amico, e lui entusiasta mi ha detto sì, dai, fallo, buttate. E quindi siamo state trasportate da un intuito molto forte, siamo arrivati e abbiamo fatto jackpot, perché devo dire che aver vinto 4 Tony Award al primo investimento a Broadway non è da tutti, quindi siamo molto orgogliosi di questo. Adesso io, come sono la unica produttrice europea, quindi ho il diritto di prelazione per portarlo in Italia, penso tra un paio d'anni. Eccoci, ci stiamo facendo accompagnare dalle note di American in Paris. Prima che acquistiate tutta Broadway, facciamo parlare Fabrizio anche dell'operazione, se vuol parlarne lui, dell'operazione invece Siddhartha, perché è stato un altro pezzettino d'Italia, anzi un pezzettone d'Italia che è arrivato a Broadway, portando un'operazione tutta italiana e facendosi apprezzare. C'è un futuro, c'è una possibilità anche per noi di portare i nostri spettacoli musicali in quel territorio. Dobbiamo crederci. Sì, noi Siddhartha, tu sai, l'abbiamo fatto 2 anni in Italia con l'obiettivo fin dall'inizio, per cui con un investimento anche importante con gli eredi di Herman Hesse per prendere i diritti nel mondo, con un copione in più lingue già preparato, quindi inglese, tedesco, francese. L'obiettivo fin dall'inizio era portarlo fuori dall'Italia, perché io sentivo prima tutti questi titoli meravigliosi che stanno arrivando in Italia, ma essendo amico di tutti i produttori principali italiani, so che la situazione è triste in Italia, cioè per gli spettatori, per gli investimenti. Quindi Siddhartha, stiamo facendo un investimento importante con Gloria, con Grace, appunto. A settembre faremo un mese di riallestimento con il regista John Rando, che Tony Awards ha detto a Broadway con On the Town, con tutto un gruppo di tecnici inglesi e americani che hanno lavorato anche in un americano a Parigi per la parte video, scenotecnica, eccetera. Quindi un investimento importante per creare un prodotto che possa essere esportabile. Ad ottobre saremo alle Folies Bergère a Parigi per 10 giorni e poi al Tempodrome a Berlino, quindi cominciamo a andare in Francia, colonizzare l'Europa, cioè. Bravo. Andiamo con la versione italiana con i sottotitoli, per poi, soprattutto in Germania, la Francia, aspettiamo un attimo, creare una compagnia e poi con un cast tedesco che faccia. Certo. Ecco, però Fabrizio, sì. Gloria, come è stata accolta la capacità artistica e anche imprenditoriale, in questo caso italiana, a Broadway? Chi vuol rispondere? Allora, io devo dire c'è che... magari un po' all'inizio di diffidenza, oppure invece sì, subito... Sì, è stato all'inizio, sono venuta a vederlo, comunque lo spettacolo è piaciuto molto, però poi io volevo fare, questo spettacolo secondo me Siddhartha merita, perché è un messaggio molto importante, c'è tutto dentro, il messaggio, la musica, tutto. Io volevo sfidarmi a farlo negli Stati Uniti, loro mi hanno detto di no all'inizio, mi hanno detto no. Aspetta un attimo, perché qua è Broadway, è difficile, io lo voglio fare. E lo abbiamo fatto, l'abbiamo portato l'anno scorso a Broadway come showcase, cioè nel senso come versione concerto, versione ridotta, e loro erano molto preoccupati, hanno detto guarda che è un rischio, guarda che... Io ho detto chi non risica non rosica, io questa frase l'ho imparata in Italia. L'ho voluto fare, devo dire che abbiamo avuto un grandissimo successo, perché abbiamo avuto questa innovation tanto come a New York, come a Los Angeles, e l'abbiamo portato anche in Messico. da loro lì hanno visto la, perché poi è in italiano, c'è il musical italiano in italiano che girerà, quindi anche doppia sfida, no? E hanno visto la risposta del pubblico e da lì a più a breve mi hanno fatto firmare il contratto worldwide. Insomma, davvero un successo che, come dire, potrebbe aprire la strada, Fabrizio, a nuove collaborazioni. Avete già in mente qualcosa su Broadway? Dai, dici qualcosa, è Ferragosto. No, completavo il ragionamento di Gloria su Siddhartha e su Broadway, la tua domanda. È un mondo chiuso Broadway, ma perché sono bravi, ma anche perché c'è una sorta di... Entrarci è stato difficile. Siddhartha è piaciuto molto come titolo, perché interessa molto, un libro amato probabilmente, la storia è molto bella. Non so se si possa fare un'analogia con Jesus Christ, che ormai ha 40 anni, però no, nel senso di che sono due storie di due grandi... Beh, insomma... Maestro di pace. Le musiche sono piaciute molto, noi siamo stati un mese al Fringe a Edimburgo, con il pubblico 90% inglesi, scozzesi, eccetera, cantando in italiano, e c'era gente commossa, che piangeva, che ha colto, per cui c'è da lavorarci un po', ma ok. Anni, dal 1997 questo inizio apre uno degli spettacoli più di successo di Broadway, forse addirittura nella storia. Stiamo parlando ovviamente del Re Leone di The Lion King, che però nonostante imperversi ormai non solo a Broadway ma insomma nei più grandi scenari musical del mondo, in Italia non è ancora mai arrivato. Forse fa parte del discorso, Lucio, che facevamo prima, quello di teatri che devono sapere e poter ospitare uno spettacolo di queste dimensioni. Però insomma, cerchiamo di non uccidere la speranza, cioè, ce la faremo a vederlo in Italia o dobbiamo andare per forza a New York? Ma non, onestamente non lo so, nel senso che comunque i produttori secondo me sono una razza, adesso sì, loro mi guardaranno malissimo, Fabrizio adesso ci mena. Però loro in realtà sono una mutazione genetica, perché il produttore di suo secondo me va sul sicuro, questo vale un po' tutti i campi, nel teatro, nella musica e via dicendo, perché anche a Broadway adesso voi avete appunto un progetto coraggioso come Siddhartha, che è nuovo, ma American in Paris fa parte del andiamo sul sicuro, della loro cultura, certo, assolutamente. No, ma andiamo sul sicuro nel senso che vuoi ciccare un titolo come quello, ma come fai? Cioè, c'è Gershwin, c'è appunto il film, tanto vero che hanno fatto anche Gigi, che insomma fa parte poi di quella storia, il re, no? Dio in questo momento, cioè se si guarda in questo momento che cosa c'è a Broadway, c'è Kinky Boots che è preso da un film, I Miserabili che è venuto fuori, si è portato in dote anche adesso Macintosh, dice mi è andata benino con I Miserabili, adesso ci faccio pure Miss Saigon al cinema, vuoi che dopo non ritorni Miss Saigon a teatro, c'è On the Town, c'è American in Paris, quindi vanno sul sicuro. Se vanno sul sicuro in America, figurati in Italia. Allora, un musical come Lion King, che ha bisogno di spazi sterminati quasi quanto le savane che rappresenta, dei costumi pazzeschi, perché poi in realtà diciamo, cioè, c'è una colonna sonora bellissima, la storia l'abbiamo vista declinata da The Karate Kid in poi, sempre quella, cioè il ragazzino che ha un, come dire, un'uscita dalla linea d'ombra, diciamo. Esattamente, per cui la storia non è niente di che, però tu ti siedi con la famiglia, vedi entrare giraffe, vedi entrare uccellini, vedi delle cose pazzesche. La stessa cosa l'avevano fatto con La Sirenetta, è un po' la Ida del musical. Se vuoi sì, ma comunque la parte della macchina scenica, la parte dello stupore, per cui che tu abbia 6 anni o che ne abbia 92 comunque devi restare a bocca aperta, quel tipo di intrattenimento costa tantissimo, perché se lo fai con il ragazzino vestito da albero non ha lo stesso assolutamente, no. Però io sono convinto che proprio per un titolo come questo in Italia ci sia un pubblico pronto che va, cioè, ben oltre il pubblico del musical, ovviamente, no? Per cui forse anche di più della Bella e la Bestia, se vogliamo vedere. Quindi sì, se è arrivato Beauty and the Beast, che certo ha delle dimensioni un po' più contenute. The Lion King, insomma, adesso c'è solo una. Anche sta storia dei palchi, dei teatri, insomma, ci sono situazioni come, per esempio, penso al Teatro di Arcimboldi a Milano, che hanno francamente dei palchi e delle strutture sceniche, una macchina scenica assolutamente, certo, all'altezza. Ma infatti, secondo me, è molto più semplice che la Disney, che porti da noi la versione in tour, sì, esatto, piuttosto che ci sia un produttore italiano che intanto gli paghi sti diritti, che sono non so quanto deve essere lungo per mettere tutti gli zeri in l'assegno ma per di più, oltre ai diritti, deve anche pagare un altro dei titoli difficili da portare in Italia, è Il Fantasma dell'Opera, certo, perché comunque Weber dice: lo vuoi fare, ma lo fai come dico io, esatto, e quindi lo fai con i fumi, sì, con tenete le marche, presente che l'ex moglie di Weber si è pagato un biglietto che non ha neanche usato da 52 milioni di dollari per andare sullo spazio, per cui insomma stanno benissimo. Sì. Allora diamo di nuovo la linea alla viabilità per l'ultima volta, poi torniamo per il rush finale. Stiamo ancora a Broadway, cominciamo a osservarne il futuro, perché potrebbe dire qualcosa anche sul futuro del musical in Italia. La Rosa Purpurea. You're from my neighborhood. You got three ways out. You could join the army, you could get mobbed up, or you could become a star. Big girls don't cry. Big girls don't cry. Walk like a man, fast as I can. Walk like a man from you. I'll tell the world, forget about it, girl. And walk like a man from you. Questo è Jersey Boys, qualcuno l'avrà riconosciuto perché negli ultimi anni è diventato famoso anche in Italia con il film di Clint Eastwood. Tra l'altro, trovare Clint Eastwood a dirigere un musical è stata una delle cose più sublimi che siano accadute negli ultimi anni, con tanto di scena finale alla Gene Kelly in mezzo alle strade. Jersey Boys è un titolo, quindi, quelli che vengono un po' chiamati, se vogliamo, jukebox musical, no? Perché chiaramente la storia di Frankie Valley e dei Four Seasons è una storia raccontata in questo musical con una trama piuttosto esile, se vogliamo, anche se interessante il fatto che c'è il racconto da più punti di vista, un po' la Pulp Fiction per intenderci, ma insomma le canzoni, Silvia, sono davvero l'asse portante, perché Frankie Valli è uno di quei personaggi che non sai magari in Italia, se Frankie Valli uno si ricorda due cose e poi invece ti trovi una caterva di capolavoro. Le canzoni le riconosci. Beh, tu hai citato Mamma Mia come jukebox musical, ce ne sono tanti altri. Jersey Boys, tra l'altro, in Italia il nostro Clint Eastwood sarà Claudio Insegno ed è una garanzia, perché la regia di Claudio Insegno darà, secondo me, quel tocco in più per portarlo in Italia, focalizzarlo su di noi e metterci la nostra comicità. Io mi ricordo la versione che fece di Shrek, anche quello tratto dal famoso film d'animazione, e Claudio Insegno aveva quel tocco di comicità, di ironicità che vogliamo trovare anche in Jersey Boys. Ricordiamo che Claudio Insegno ha avuto il coraggio di portare in Italia uno spettacolo come Puppetry of the Penis, che non credo che sia, cioè, abbastanza sconvolgente per un pubblico italiano. Ricordiamo un po' le date, Silvia. Il 15 aprile 2016 sarà al Teatro Nuovo di Milano. I provini saranno fra poco, a settembre, quindi se c'è qualche performer in ascolto ancora può farli, e datevi da fare, perché insomma con la crisi che c'è in questo momento, provare a fare i provini credo che sia la cosa principale. 15 aprile, quindi primavera dell'anno prossimo, Jersey Boys. Jersey Boys, che è un po' un mix, appunto, sì, un jukebox musical, però con un substrato di Quei Bravi Ragazzi, per intenderci un pochino, no? Una storia di gangster che potevano diventare qualcos'altro, potevano diventare gangster e sono diventati invece dei cantanti, senza perdere un po' la loro matrice. Fra le cose del futuro, che però è anche già passato, perché poi Broadway sa anche rinnovarsi continuamente, c'è sicuramente Wicked. Elphaba, why couldn't you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition. So though I can't imagine how, I hope you're happy right now. queste sono invece le note appunto di Wicked. Lucio, so che è un musical al quale tu tieni molto, ti piace molto. Sì. A Broadway è già diventato verde non come Hulk, a Broadway da parecchio tempo, e nel 2016 diventerà un film per il cast. Tra gli altri si fanno i nomi di Lia Michele, o Michal, come direbbero loro, e Harry Styles. Ecco, che musical è Wicked? Allora, Wicked è il musical, nel senso che alla fine ci sono anche tantissimi altri musical che lo citano. Perché? Perché ha più o meno tutto. Intanto ha un teatro tutto suo. Tu entri e già dall'esterno entri in questo mondo, che è il mondo di Oz, perché è un altro punto di vista dalla storia del mago di Oz, per cui la protagonista è la strega, che dovrebbe essere quella cattiva, tutta verde. In realtà è solo vittima di una cattiva pubblicità. È un titolo che ancora oggi fattura oltre 2 milioni di dollari a settimana. Ci sono, come dire, in questo caso stavamo sentendo Idina Menzel e Kristin Chenoweth, che sono le due, Elphaba e Glinda, le protagoniste originali, ma ci sono seguaci delle nuove Elphaba, delle nuove Glinda, che ciclicamente si alternano, che fanno sembrare le polemiche tra quelli della Tebaldi e della Callas roba da ragazzini, perché se aprite YouTube e ascoltate appunto, che ne so, Carrie Ellis che canta Defying Gravity, vedete tutti gli insulti di tutti quelli che dicono no, la mia era meglio, no, quell'altra, ma però... Allora, di Wicked al cinema se ne parla da una vita. C'è questo gioco per cui quando c'è un titolo che tira a Broadway si incomincia a parlare, perché vengono acquistati o preacquistati i diritti, si incomincia a parlare di un film, non sai mai quanto sia vero. Sicuramente prima o poi lo diventerà un film. Difficile che lo diventi fino a che rimane in scena, perché ci sarebbe una sovrapposizione. Quando Wicked chiuderà a Broadway probabilmente diventerà un film. Non è una regola certa, ma è abbastanza probabile. Però le notizie in questo senso, Lucio, sono invece molto più certe, nel senso che si parla ormai anche su internet movie database, che è la Bibbia assoluta, Wicked Movie Adaptation per il 2016 con Idina Menzel, quindi... Però l'anno scorso era previsto per il 2015, il 2013 era previsto per il 2014, in realtà fa parte del gioco, credo che faccia assolutamente gioco. Io, Lea Michele team tutta la vita, nel senso che anche in Glee erano madre e figlia, e quindi in qualche modo c'è una continuità. Si è parlato comunque di tanti nomi, un po' come a suo tempo era stata la ricerca di Rossello Ara per Via col Vento, ne hanno fatto addirittura un film. Quando veramente ci saranno annunciati, ok, le audizioni, io credo che si scanneranno tutte le signore di Broadway capaci di emettere tre note più o meno vagamente intonate, tutte vorranno essere o la verde Elphaba o la svampita bionda Glinda. Chissà che cosa succederà invece quando qualcuno finalmente dirà che è il momento di far debuttare sul palco di Broadway, inizialmente e poi in tutto il mondo, il musical di Frozen, perché qui siamo di fronte al più grande successo della storia del cinema d'animazione, tra l'altro un film che ha una rara capacità di penetrazione musicale sulle ragazze, soprattutto sulle bambine e sulle ragazze di oggi, che nel frattempo cresceranno e sono lì che attendono questo evento. E il musical di Broadway di Frozen, la Disney lo sta preparando, la notizia è certa. C'è stato un aggiornamento tra l'altro dal Daily Mail negli ultimi giorni, con anche il coinvolgimento degli autori delle canzoni dei film, Robert Lopez e Kristen Anderson Lopez, con Jennifer Lee co-regista della pellicola. Insomma, il cast tecnico comincia a crearsi. Si parla del 2017 per il debutto a Broadway. Quello, secondo me, è certo, siamo un po' in anticipo, avremo tempo di dirlo. Stanno lavorando, però sarà un successo clamoroso. Assolutamente annunciato, nel senso che stanno lavorando anche al sequel, per cui Frozen 2 al cinema è già stata fatta fatta una clip che è una canzone che per non spegnere l'entusiasmo. Del resto, appunto, prima parlavamo di Idina Menzel, a parte quando la signora o perché fa freddo o perché è agitata, comunque magari non è all'altezza del suo nome in performance, che poi vengono massacrate, però è una grande, insomma, lei è vincitrice di Tony, ha lavorato in Rent, ha lavorato con Frozen e con Let It Go, è diventata una star al di fuori del teatro musicale, è diventata Idina Menzel. I'm gonna take a deep breath. Insomma, niente male, direi, come introduzione per questo The Color Purple, un altro dei musical recenti, diciamo, di Broadway, che può ancora sviluppare molto, anche se la prima produzione è del 2005, poi lì però c'è la capacità di rinnovare. E anche qui Il colore viola di Steven Spielberg, 1985, film, lo ricorderete, che racconta in senso epico la storia di una famiglia, di una donna afroamericana nel periodo dello schiavismo, diventa un musical con queste note che prende proprio l'anima del soul, diciamo, e la trasporta su Broadway, uno straordinario spettacolo di quelli che stanno avendo anche davvero una durata eterna, di quelli che poi possono arrivare tranquillamente a 20-30 anni senza sentire il peso del tempo che passa. Ma questo lo dico perché a Broadway quest'anno sono stati fatti anche dei tentativi che magari non sono riusciti tantissimo, questo sì, però per esempio Rocky, per dire proprio film che diventa musical, oppure I ponti di Madison County, che è andato un po' meglio, Bullets Over Broadway, così, insomma, Broadway è una sorta di motore sempre acceso, nel quale tutto quello che ha avuto un senso e che lievemente si storicizza a livello cinematografico è pronto a diventare musical, anche quando magari non nasceva così. È vero, ce ne sono tanti. Prima ti dicevo Kinky Boots, che è un film inglese tra virgolette a basso budget, che è diventato invece uno spettacolo incredibile, tuttora in scena, e stranamente, pur essendo in scena da 3 anni, con le musiche di Cyndi Lauper, appunto, Herbie Firstein mi scuserà, spero che non senta, ma non so, un proprio un pezzo di Frankenstein Junior questo. Assolutamente sì. Frankenstein. Billy Porter è ancora in scena sera dopo sera, credo con l'aiuto di uno psicanalista che cerca di evitarne l'alienazione, ma è ancora lì. Ce ne sono tantissimi. Full Monty, un altro titolo che è stato trasformato. Billy Elliot, prima diceva, appunto, raccontava Silvia. I produttori fanno un po' fatica a investire su cose nuove, peccato, perché per esempio quest'anno ai Tony Award ha fatto Mambasa Fun Home, che è un musical con la struttura di un off, nel senso che è piccolo, nel senso che ha vinto tutto. A me dispiace per Gloria, perché insomma American in Paris era candidato alla qualunque, è arrivato Fan Home e ha detto scusate, sì, ma attimo, noi abbiamo il record in cast di film. Lei è molto orgogliosa, attenzione, non mi scatenate Gloria. Allora, siamo arrivati alla fine di questa nostra bellissima ora, io ringrazio già tutti perché è stata un'ora stupenda che è volata sulle note della musica migliore e del rapporto fra il musical e il cinema in Italia e oltreoceano. Un giro rapidissimo, veramente rapidissimo, una battuta, chiedo a Silvia e a Lucio qual è il titolo veramente nell'anima che vorrebbero vedere in Italia, non dico nella prossima, ma nelle prossime stagioni. Posso dirne due? Sì, dai. Dai. Wicked, senz'altro, anche perché ovviamente quando fai sto lavoro poi ti viene in mente di pensare al Dreamcast tra gli attori che conosci e dici ci metterei quello. Un po' tipo il fantacalcio, noi facciamo il fantamusical. E l'altro, Book of Mormon, non verrà mai. Molto americano anche quello. Silvia. Beh, allora anch'io ne dico due. Io vorrei vedere Il fantasma dell'opera, però con tutto, quindi col lago in scena, con la nebbia e i candelabri e anche il lampadario che cade. Ecco, magari non addosso al pubblico. Non addosso al pubblico, però lo voglio vedere. E poi l'altro? Mary Poppins. Perché io sono attaccata all'ombrellino assieme a lei, per quello voglio vedere da piccola. E invece a Fabrizio e Gloria chiedo il musical che vorrebbero produrre, di cui si sentirebbero orgogliosi come produttori. nuovo musical, tu dici? Un nuovo musical, dove metteresti dei soldi? Tu sai, io li metterei in un musical che ci hanno proposto, quindi abbiamo la possibilità di farlo, che si chiama Kung Fu Panda, produzione che debutterà a Macao, 40 milioni di dollari di allestimento, prima produzione DreamWorks, per cui lui vuole fare bella figura rispetto alla Disney, il presidente. Io li metterei lì oggi. Gloria? Io le metterei dove le sto mettendo, in Siddhartha e in American in Paris, perché Siddhartha deve viaggiare nel mondo e deve arrivare a Broadway e deve rimanere là per più di 20 anni, deve essere il musical proprio, lo stanno paragonando al nuovo Jesus Christ Superstar, e in American in Paris perché deve venire in Europa, è un bellissimo musical che merita, quindi le continuerai a mettere. E questo assolutamente lo aspettiamo davvero tutti. Grazie davvero a tutto il nostro cast qui del broadwayano per molto questa musical puntata speciale della Rosa Purpurea. Noi ci risentiamo la prossima settimana, torniamo a parlare di film in sala, perché ritorneranno ad arrivare i film in sala. Io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo. Un saluto da Franco D'Assisti.